Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Sono entrato in questo studio e si sentiva un profumo di filo Germania. No, scherzo, perché chiaramente alcuni mi stanno già scrivendo. È noto, notorio, almeno in chi segue Radio 24, che Oscar Giannino abbia delle posizioni sul ruolo della Germania in Europa, su quello che ha fatto nel passato, sulle responsabilità della Germania, completamente diverse da chi vi parla e da anche da altri osservatori. Ma questo è il bello della radio, è il bello di avere anche posizioni molto diverse. Al di là del profumo di Deutschland, non aggiungo altro, però oggi di cosa ci occuperemo? Parleremo di dati economici italiani, intesi come occupazione. Allora, sull'occupazione abbiamo chiesto più volte, ma senza mai ottenere nessun risultato, che il governo fornisse i dati a livello aggregato, ossia non una volta l'INPS, un'altra settimana l'Istat, un'altra settimana il Ministero del Lavoro. Così comunque non è. E perché lo dico? Perché oggi i dati che stiamo commentando non sono una ripetizione dei dati delle settimane scorse, sono quelli forniti dall'INPS e si riferiscono ai primi sette mesi del 2017, dove sono in calo le assunzioni stabili, solo il 24%, praticamente una su cinque. Una su quattro per la precisione, mentre c'è una buona notizia su 1 milione di posti di lavoro in più che si sono creati, spinti soprattutto dai contratti a tempo. Sull'anno, e quindi non di carattere indeterminato, sull'anno il saldo positivo è di 570.000 unità, ma di questi 570.000, 500.000 sono a termine. Quindi bene che vi siano più contratti e più lavoratori, diciamo, sarebbe preferibile averli a tempo indeterminato e non solo a termine. Tra l'altro oggi il vice ministro dell'economia Enrico Morando ha detto che applicare il bonus dei giovani anche a chi, quello su cui il governo sta studiando e sta lavorando in vista della finanziaria, anche a chi ha superato i 29 anni, potrebbe essere possibile se l'assunzione a tempo indeterminato segue un contratto di apprendistato. Quindi se tu hai più di 29 anni ma vieni da un contratto di apprendistato, questo potrebbe essere un'eccezione al tetto, alla soglia dei 29 anni per ottenere da parte dell'impresa la decontribuzione parziale, vista appunto l'età, la manovra allo studio. È una buona soluzione per consentire di avere un po' di flessibilità rispetto all'età ed esalterebbe un po' di più lo strumento dell'apprendistato. Alcuni infatti avevano messo in evidenza come bisogna stare attenti alla decontribuzione per i giovani neoassunti, che non doveva andare a danneggiare lo strumento dell'apprendistato. Infatti il governo sta studiando un meccanismo in cui non diventi, diciamo, più facile e più conveniente l'assunzione al posto dell'apprendistato, perché quello è un meccanismo che stava funzionando parzialmente. Comunque ne parleremo. Per quello che riguarda le altre notizie, oggi partiremo dal Salone Nautico di Genova, che vuol dire uno dei settori più importanti per la nostra economia. 57esima edizione del Salone Nautico, ci sono oltre 884 produttori in esposizione. Ricordo appunto che il settore nautico vuol dire per noi oltre 100 e quasi 200.000 occupati, 3 miliardi e mezzo di fatturato, e tra l'altro il 70% quasi di questo si realizza sui mercati esteri. C'è stata una buona ripresa, ricorderete che la nautica fu il settore che crollò in maniera verticale assieme, devo dire, all'edilizia, proprio con lo scoppio della crisi quasi 10 anni fa. Nel 2007 fatturava 6 miliardi 200 milioni, l'anno dopo era crollato a 3 miliardi e nel 2014 toccò un minimo incredibile di 200 milioni, cioè si passò da 6 miliardi e mezzo di fatturato a 200 milioni appena di fatturato. più del 90% del fatturato se ne sarà volatilizzato. Adesso siamo tornati vicini ai 4 miliardi, grazie soprattutto alle esportazioni, perché la parte, diciamo, del mercato domestico langue ancora. Parleremo poi della web tax, perché la Commissione Europea oggi ha presentato a Bruxelles una comunicazione con la quale vuole inquadrare tutto il dibattito. Bruxelles chiede che le iniziative non siano dei singoli stati e quindi bisognerà arrivare a una decisione a dicembre. Tre le opzioni su cui sta lavorando Bruxelles, poi ne parleremo: una tassa sul fatturato che le imprese digitali registrano in un certo paese, una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali o un'imposta da applicare alle attività digitali, servizi offerti, pubblicità raccolta. La prima possibilità riprende la proposta di Italia, Germania, Francia e Spagna e anche altri sei paesi che si sono uniti. La seconda opzione fa riferimento a un progetto della presidenza estone dell'Unione. Faccio notare solo una cosa e poi andiamo alla borsa, che questo non è un accanimento nei confronti dei colossi del web, di un'Europa così invidiosa e tignosa. Qui è un problema di equità e di giustizia. C'è un rapporto della Commissione Europea da cui emerge come i big della tecnologia paghino in generale meno della metà delle tasse versate da loro colleghi che operano nell'industria tradizionale, e non si capisce perché. Cioè, le tasse sono tasse, non si capisce perché, o meglio si capisce adesso, poi lo spiegheremo. Cioè, se tu fai manifattura paghi quasi più del doppio delle tasse che se tu ti chiami Facebook o Amazon o quant'altro. Pensate che in Gran Bretagna l'aliquota effettiva che grava su Amazon è 11 volte più bassa rispetto a una libreria tradizionale. Allora, va bene la concorrenza, bellissimo il servizio di Amazon che ti consegna la merce e anche i libri nasce soprattutto con i libri Amazon, ma lo dico non per difendere i librai inglesi, ma come si fa a dire che è concorrenza normale quando il tuo concorrente, diciamo non virtuale, ma la libreria fisica, ha un carico fiscale 11 volte superiore al tuo e non si chiama nemmeno Amazon, quindi ha anche mezzi e risorse più limitate. In Irlanda, la mitica Irlanda, nonostante l'aliquota sia del 12,5%, Apple ha pagato di tasse lo 0,005% dei suoi profitti. Questa non si chiama in altro modo che concorrenza sleale e soprattutto iniqua verso chi svolge altre attività e paga carichi fiscali leggermente diversi dallo 0,005. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E l'ultimo tema, ci collegheremo appunto al mercato del lavoro, cercheremo di capire, l'imprenditore che avevo anticipato, poi non ce la facemmo come tempi, due giorni fa, e il tema anche salariale, perché in Europa si ragiona molto del fatto che l'inflazione non stia ripartendo, l'inflazione che interessa la Banca Centrale Europea non stia ripartendo, perché gratta gratta il ragionamento che sta uscendo è questo, perché le nuove tecnologie, l'apertura del mercato, la globalizzazione della Cina e quant'altro ha creato una pressione sui prezzi, per cui tu non hai inflazione ma anche sui salari, e con salari, e quindi con occupazione che sta ripartendo ma con salari più bassi del pre-crisi, è difficile che riparta una dinamica dei consumi e quindi che vi sia una ripresa positiva, buona, sana dei prezzi al consumo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi la diretta video anche su Facebook. Allora, la borsa più 0,60% Milano, sostanzialmente le altre borse europee si mantengono su questi livelli, Parigi più 0,50, per quello che riguarda invece New York resta leggermente negativa dello 0,01%, ancora per quello che riguarda Francoforte più 0,30%, Londra meno 0,12%. A Piazza Affari in evidenza oggi UbiBanca più 4,20%, UX Santa Portè più 3,80%, Unicredit più 2,30%, Buzzi più 2%, Mediobanca più 1,60%, Ferragamo più 1,5%, come il Banco BPM, Intesa più 1,30%, come Brembo, Recordati più 1%. Il fronte opposto è rappresentato da Tenaris meno 1,20%, Luxottica meno 1%, Atlantia meno 0,90%, Terna meno 0,60%, come Moncler e A2A. Dunque, l'euro su dollaro a quota 1,1934, quindi poco mosso, ma sempre su livelli relativamente forti. Andiamo con le altre notizie in breve. Standard & Poor's, una delle agenzie di rating che danno i voti ai debiti, diciamo, dei privati ma anche degli stati sovrani, ha abbassato il voto della Cina, portandolo da AA- ad A+. Le previsioni sono stabili. Per quello che riguarda intanto la banca centrale cinese, ha chiesto alle banche locali di bloccare l'offerta di servizi a nuovi clienti nordcoreani, di ridurre il giro dei rapporti in essere. Sempre riguardo alla Nord Corea, oggi il presidente americano Donald Trump, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: imporremo nuove sanzioni alla Corea del Nord. E Google spinge sul settore degli smartphone e ufficializza l'acquisizione di una parte delle attività della compagnia taiwanese HTC, l'ha pagata $1,100 milioni, praticamente acquisirà il team del gruppo HTC che ha lavorato ai suoi smartphone Pixel anche nella versione 2 che sarà lanciata poi 4 ottobre. Si assicura una licenza non esclusiva su alcune proprietà intellettuali della società taiwanese. Tra l'altro faccio notare che Google, che aveva già tentato altre volte ad entrare nel mercato, direttamente nel mercato dei telefoni mobili e dei telefoni cellulari acquisendo nel 2012 Motorola Mobility, la pagò cara, $12,5 miliardi, poi la vendette 2 anni dopo ai cinesi di Lenovo, perdendoci quasi $10 miliardi, le vendete per 3 miliardi infatti. Faccio notare che Google nel frattempo è al lavoro con New York Times, News Corp e Financial Times per un accordo che favorisca la diffusione degli abbonamenti online delle tre testate. Metterebbe a disposizione sostanzialmente Google un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale che, sfruttando i dati raccolti dal motore di ricerca, sarebbe in grado di individuare potenziali sottoscrittori e proporre soluzioni di abbonamento su misura. Banca Centrale Europea oggi nel suo bollettino dice che la nuova valutazione sul quantitative easing e sulle misure straordinarie verrà fatta in autunno, calibreremo gli strumenti per il prossimo anno. Poi dice che nell'area euro la ripresa in corso ha un ampio contributo positivo dall'immigrazione, l'afflusso di lavoratori da nuovi stati membri dell'Unione Europea. E poi dice l'Italia: il calo della disoccupazione non è significativo. Insieme alla Slovenia, l'Italia è il paese che non soddisfa nessuno dei tre parametri presi in considerazione, a differenza di Spagna, Portogallo, Irlanda, Cipro e Slovacchia. I tre parametri che la BCE usa per guardare come va il mondo del lavoro in Italia, nei paesi dove opera, sono il tasso di discesa della disoccupazione in 3 anni, la percentuale del calo della disoccupazione in quel periodo e il permanere dopo 5 anni di un tasso di disoccupazione più basso dell'iniziale. Ecco, nessuno di questi tre parametri viene centrato dall'Italia, a conferma di quanto da più parti si sente dire, e diciamo anche noi, che il vero problema in questo momento, con una ripresa che c'è, una ripresa economica ed è anche più forte delle attese, è il problema degli occupati e dei disoccupati. Da lì appunto speriamo che arrivi, con le poche risorse che ci sono, ma che arrivi un'iniziativa forte di concentrare queste risorse proprio sulla disoccupazione giovanile. La ultima notizia che riguarda l'Italia, la Procura della Repubblica di Bergamo, a seguito di formale esposto presentato dai Codacons, ha aperto un'inchiesta sulle cancellazioni dei voli da parte di Ryanair. Il procuratore della Repubblica di Bergamo, Walter Mapelli, ha accolto in pieno le richieste di Codacons, perché appunto i Codacons protestano sulle cancellazioni a sorpresa dei voli, sono tantissimi, ma ne abbiamo parlato per giorni, i voli cancellati in partenza da Bergamo e in arrivo da Bergamo. Bergamo è il terzo scalo più importante per Ryanair dopo Londra e Dublino, dopo Dublino e Londra a livello europeo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Primo tema dunque, il settore nautico. Questo è un momento di saloni e si fanno, di solito il periodo è questo, che va da settembre, ottobre e poi aprile, maggio. Cito a memoria Marmomac a Verona, ci occuperemo domani anche del Mido, che vuol dire occhialeria. Lunedì il programma sarà in diretta dal Cersaie di Bologna, quindi tutto il mondo della ceramica, dell'arredo bagno. E oggi Radio 24 ha trasmesso alcuni programmi, penso a due di denari, ha trasmesso alcuni programmi proprio dai nostri studi al Salone Nautico di Genova, e quindi la ripartenza dell'attività produttiva coincide anche con l'aspetto, l'elemento fieristico in un settore che, come dicevo prima, ha conosciuto una vera e propria, delle vere e proprie montagne russe quanto ha fatturato, e i numeri che sta distribuendo e fornendo dimostrano che, insomma, non dico che si sia tornati al livello del 2007, ma buona parte del precipizio è stata recuperata. Soy el fuego que... Sì, li voglio ricordare ancora una volta, perché per capire che cosa ha rappresentato per alcuni settori produttivi di questo paese la crisi del 2008. Insomma, avevamo una nautica che fatturava nel 2007 6 miliardi 200 milioni, nel 2008 crolla la domanda soprattutto domestica. Pensate che se era pari a 3 miliardi la domanda italiana, nel 2014 era crollata a 200 milioni, vuol dire che il 90% della domanda domestica era scomparso. Nel frattempo il mondo dei produttori di nautica si sposta, come altri settori produttivi, sempre più verso l'export. L'export ha fatto più 17% l'anno scorso sul 2015, 2 miliardi e 300 milioni di euro. Si è un po' rianimato il mercato interno, anche se ancora molto distante dai 3 miliardi del 2007-2008, più o meno 680, quasi 700 milioni di euro di vendite, più a cui vanno sommati 470 di importazioni, insomma 1 miliardo e 115 milioni. Presidente Carla De Maria, presidente dell'UCINA, l'associazione che aderisce a Confindustria e che organizza il Salone Nautico di Genova, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. La sento molto bassa, ecco, adesso mi hanno aperto la cuffia. Allora, dire che da i 3 miliardi del mercato domestico crollati a 200 milioni e poi adesso tornati a 1 miliardo e 100, di cui 700 milioni di produttori italiani, si può dire che, insomma, il grosso del precipizio l'avete superato, anche se manca ancora più di metà per arrivare al 2007? Assolutamente sì, intanto buongiorno, grazie, ma di fatto qui a Genova splende uno splendido sole, perché i dati che abbiamo appena distribuito della pubblicazione di UCINA, la Nautica in Cifre, che, alla quale collabora anche la Fondazione Edison del professor Fortis, sono segnali di consolidata ripresa. Come ha detto lei correttamente, era già a due cifre la crescita dello scorso anno come valore globale di fatturato, oltre il 17%, e ci si chiedeva se questa fosse di fatto una crescita solida o fosse stato un fuoco d'artificio. Allora, oggi possiamo dire che è solida, perché nuovamente cresciamo e superiamo il 17%, i dati che abbiamo dato, cresciamo del 18,6% rispetto all'anno prima, e questo è un dato di fatto che ci fa dire che la ripresa è vera. Ha ragione lei, partiamo da una situazione che aveva raggiunto dei dati molto molto bassi, ma sono ormai 2 anni che siamo in recupero. Il dato importante, l'ha sottolineato, è quello che è tornato il mercato italiano, e noi come associazione siamo estremamente interessati a questo dato, perché parla della filiera di cui chiaramente l'associazione è interessata, e non soltanto un segmento del mercato. Le do un dato: il dato più basso raggiunto dal nostro settore è stato nel 2013, perché ricordo una crisi profonda, la più profonda che abbiamo mai vissuto, da noi è peggiorata a causa di interventi legislativi tanto pericolosi quanto inefficaci. E quindi lei si riferisce a Mario Monti, molti ascoltatori mi dicono fu il governo Monti ad abbattere e distruggere il mercato interno. Bravissimi, quando gli altri mercati nel 2012 cominciavano, se non altro, a bloccare la decrescita, e qualcuno timidamente ripartiva, noi affondavamo ancora. Eravamo nel 2013 col punto più basso, 2 miliardi e 4, abbiamo recuperato in 5 anni 1 miliardo, che è tanto rispetto al dato più basso. È vero, siamo ancora lontani dal dato massimo, ma lo slancio è molto forte, e il mercato italiano ci fa dire, avevamo con noi anche il presidente Duranti della Silea, che raccoglie le società di leasing nautico, ed ha dato dati estremamente interessanti, crescita di oltre il 25% dei numeri di contratti dei acquirenti italiani. Quindi è uno slancio che cavalcheremo grazie anche agli interventi legislativi che ci attendiamo. Oggi con noi c'era il ministro Delrio, che ha chiaramente dato la sua disponibilità. Allora, Presidente, dopo il metro e la pubblicità ascolteremo anche appunto l'intervento del ministro Delrio e quello del presidente Confindustria Boccia e anche del vice ministro dell'economia Luigi Casero, e poi vorrei capire sul fronte export, ma anche interno, da dove arrivano i segnali più interessanti, per quali tipologie. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dopo il meteo state ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Oggi celebriamo il grande successo di questo settore, il rilancio, siamo veramente i primi esportatori al mondo, c'è genio, creatività, abbiamo risollevato un settore che era in ginocchio e che sta dando nuovi posti di lavoro, quindi, però diciamo che vogliamo fare sempre di più perché l'industria italiana si è ripresa, ma ha bisogno di nuovi investimenti. I programmi che dal 2014 abbiamo messo in campo sono programmi molto ambiziosi, c'è una quantità di investimenti e di potenziamento infrastrutturale enorme. La logistica è un elemento su cui stiamo molto lavorando, cioè fare in modo che le merci arrivino appunto nei porti, con i treni vengano smistate immediatamente, con dei corridoi veloci alle aziende che li aspettano. Quindi l'Italia può diventare, ed è già all'inizio, il grande molo delle merci per l'ingresso in Europa. Gli accordi con la Svizzera, con la Francia, con la Germania ci danno proprio questo ruolo, dobbiamo svolgerlo sempre meglio. I nostri porti e la riforma che abbiamo fatto ci sta consentendo di interpretare al meglio questo ruolo, ma dobbiamo lavorare ancora. Oggi è la dimostrazione che sia per il settore che per, mi sembra, per la città e per il paese ci sono i risultati molto positivi. I risultati di crescita sono veramente positivi del settore, è una dimostrazione di un sistema Italia che funziona. Per consolidare questo trend estremamente positivo di questo settore, secondo lei il governo cosa può e cosa dovrebbe fare? È necessario proseguire in questa azione di politiche fiscali che siano mirate allo sviluppo dei vari settori, quindi specifiche in vari settori. Noi abbiamo un tavolo con Ucina che sta proseguendo, che potrà portare dei risultati concreti nel breve periodo, ad esempio sull'leasing nautico, è uno dei temi su cui dovremmo dare delle risposte, potrebbe essere sicuramente un'ulteriore cosa che sviluppa la cosa, e poi proseguire, specialmente non ritornando verso politiche che invece fanno fuggire dal paese e dal settore. Gli errori del passato insegnano. Gli errori del passato sono totalmente da evitare. Il possesso della barca è una cosa positiva perché porta ricchezza. E quindi sono delle cose che dobbiamo cercare di svilupparle. Adesso dicevo, in questa logica del sistema, le proposte che fanno gli imprenditori del settore sono utili. Mi sembra che ci sia un buon rapporto fra di loro, Confindustria e il governo. Bisogna proseguire su questo. Questo è un settore di cui siamo orgogliosi come paese, ma che determina due aspetti. Più che, come dire, il vento, è la capacità di intercettare il vento e di saper navigare. Combinato disposto di alcuni strumenti della politica economica che ha visto una capacità di reazione di gran parte dell'apparato industriale italiano, tra cui la nautica italiana. E tra l'altro un salone che diventa la vetrina di un pezzo importante dell'industria italiana. L'industria nautica è una finestra sul mondo dell'industria italiana della nautica, che si affaccia appunto e si orienta verso un export che aumenta. E tra l'altro, dato interessante, anche una domanda interna paese che comincia ad attivarsi. In questi anni ha anche cambiato l'atteggiamento della politica nei confronti di questo mondo, talvolta visto un po' di traverso. Nella società post-ideologica finalmente abbiamo capito che fare una bella barca tecnologica e anche di bellezza e di design e venderla nel mondo significa attrarre ricchezza nel paese e non fare questioni ideologiche. Tra l'altro, l'idea di puntare sulla maggiore competitività dell'industria dà ragione al paese e ai suoi risultati, e ne siamo tutti orgogliosi. Abbiamo ascoltato nell'ordine al microfono del nostro Andrea Ferro, che sta seguendo per Radio 24 il Salone Nautico di Genova, il ministro Delrio e anche il vice ministro dell'economia Casero, ammettere che quella di Monti fu un errore. Continuate a scrivermelo, guardate che ne abbiamo parlato. Monti fece alcune cose buone, ma poi non ne fece altre di buone, e l'Italia finì e non seppe, a mio avviso, neanche opporsi alla Germania, con buona pace di Oscar Giannino. Ma e all'atteggiamento tedesco. Una delle cose non buone che fece, l'abbiamo detto mille volte, è distruggere un settore che non è... Vedete, ci fu quella famosa campagna deficiente, devastante, anche i ricchi piangono. Il problema non è colpire... Cioè, la lotta all'evasione si fa con tutti gli strumenti che utili e a disposizione. Altra cosa è considerare quello che si compra la barca di porto, sono 100.000 italiani che hanno barche anche di piccole dimensioni, come l'evasore per forza o il ricco da bastonare, con la conseguenza che bastonammo anche tutti i dipendenti del settore, che, ripeto, sono più dei proprietari di barche, sono 190.000. comunque, che fu un errore, lo diciamo da anni. Torno dalla Presidente, invece, avete ascoltato anche la frase di il commento su questo del Presidente Confindustria Vincenzo Boccia. Presidente Carla De Maria, andiamo a scorporare questi dati. Il 67% quasi del fatturato lo fate sui mercati esteri. Quali mercati soprattutto e con che tipologie? Allora, partirei dalla tipologia perché è l'aspetto più interessante per noi come associazione, e questo, l'adesione e la partecipazione a questo salone, che è lo specchio del mercato, è chiarissima. Sono cresciute le adesioni di tutti i segmenti, vuol dire che sono in crescita tutti i segmenti della filiera, e questo per noi è molto importante. E tutti hanno in questo salone o aumentato i loro investimenti, che vuol dire che l'anno scorso è andata bene, e addirittura sono tornati espositori che non erano con noi da tempo. Hanno ritrovato le forze, ha ragione lei, soprattutto verso il mercato estero. In realtà non ci sono mercati per la nautica italiana che sono più favorevoli di altri, ci sono i mercati economici, sono le situazioni economiche dei diversi mercati che ci danno la misura di quanto siano interessanti l'uno rispetto all'altro. Questo voglio dire che noi vendiamo dappertutto dove c'è c'è mercato. Ci sono mercati, il mercato europeo, che è un mercato maturo per la nautica, così come quello americano, sono cresciuti di più di altri che potenzialmente potrebbero dare dei risultati. Sto parlando per esempio della Cina, non dell'Asia in generale, ma della Cina, che ha una problematica che speravamo si risolvesse più velocemente, e ancorché ci sia la possibilità potenzialmente di un acquisto significativo di imbarcazioni, questo non sta avvenendo, ma nessuno degli operatori lascia quel mercato in attesa che succeda. Il sud-est asiatico invece è un altro mercato maturo che ha dato dei buoni risultati. Gli Stati Uniti, primo mercato al mondo nella nautica, credo che lascerò questo settore quando sarà ora di passare qualche ora su una barca, e rimarrà il primo salone, il primo mercato al mondo, cresce in maniera significativa. Sud America, da fare dei distinguo, perché il Brasile è in totale sofferenza, continua a non essere, mi ricorda l'Italia di qualche anno fa in termini di risultati, mentre tentano di dare un segnale di ripresa alcuni mercati, vedi per esempio l'Argentina, dove sono riprese le vendite. Però dove c'è mercato, i costruttori italiani osano vendono, ma quello che è interessante è che vendiamo in tutti i segmenti. Allora, per quello che riguarda il mercato interno invece, Presidente, prima di salutarla, dov'è che stanno arrivando, su quali tipologie? Perché qui ci porta anche al tema dei consumi. Allora, ci fu l'effetto della tassa di Monti, però ci fu, per essere precisi, anche l'effetto di un crollo verticale dei consumi in questo paese, la seconda recessione che ci siamo beccati, diciamo, dal 2011 al 2015. Dov'è che vedete i segnali di risveglio nei consumi interni più interessanti, al di là delle nicchie, dell'extra lusso, beati loro, ma insomma a me interessa più quello che potremmo chiamare mass market anche nella nautica. In ugual misura il discorso che ho fatto per l'export vale anche per l'Italia. Il dato di Assilea di un 25% di aumento di contratti, chiaramente sono clienti italiani, anche se sono diventate interessanti le condizioni dei leasing italiani, per cui qualche straniero viene, ma di fatto è tutto mercato interno. Il 25%, dicevo, dei numeri di contratti in crescita parla di imbarcazioni di più piccole dimensioni rispetto all'anno scorso, per esempio, dove c'erano soprattutto imbarcazioni yacht e di grandi dimensioni, addirittura mega yacht. È un valore che ci interessa, perché noi abbiamo un moltiplicatore che lo stesso professor Fortis oggi ricordava, per un operatore in un cantiere ci sono nella filiera a monte e a valle 7 operatori, è uno dei più alti moltiplicatori economici, diciamo. Esattamente, dell'indotto. Mm-hmm. Altro che come siamo stati considerati e demonizzati quale club di evasori fiscali. Noi non voglio dire, ma guardi, Presidente, nel salutarla chiarisco il tema, perché noi abbiamo condotto battaglie lunghissime sull'evasione fiscale. Sì. Ci mancherebbe. Ma un conto è la situazione, diciamo, col fisco italiano, di chi la barca se la compra. Ma qui siamo andati a penalizzare chi la barca la costruisce, cioè gli operai, i dipendenti e tutto l'indotto. Ma cosa c'entra questo con... Se poi uno Stato è serio, è in grado di capire se chi la barca se la compra è un evasore, è uno che ha fatto soldi e può permettersi anche barche di grandi dimensioni o no. Ma cosa c'entra questo con la cantieristica? È il cortocircuito che a me spaventa. Grazie anche alla Presidente di Lucina dai nostri studi, che so essere molto belli, mi conferma lì a Genova. E così, bravi, vi siete difesi anche voi. Bene, grazie. E vedremo quelli di Bologna e del Cesai. Grazie alla Presidente di Lucina, Carla De Maria. Adesso andiamo sul traffico e poi borsa, ma soprattutto web tax, perché c'è un tentativo di arrivare a un accordo su una cosa, a mio avviso, scandalosa, e la concorrenza non c'entra niente. Qui ci sono, come la fattoria degli animali di Orwell, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri, e non si capisce perché i colossi delle le multinazionali del digitale, Amazon, Google, Facebook e via così, Twitter, pagano tasse irrisorie rispetto ai comuni mortali e anche rispetto ai loro concorrenti non virtuali. Dopo il traffico. Focus Economia. Minuti. Allora, questa vicenda della web tax che non va a chiarirsi oggi, però almeno c'è una Commissione europea che ha presentato oggi a Bruxelles una comunicazione con cui intende inquadrare il dibattito, in sostanza raccoglie l'invito di Germania, Francia, Spagna, Italia e vuole ragionare su tre opzioni e poi, se ho ben capito, arrivare a discuterne a dicembre. Una è l'opzione di un'imposta da applicare alle attività digitali, un'altra è una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali, che è quella che chiedono, scusatemi, a transazioni digitali, e poi c'è quella che chiedono Italia, Francia, Spagna e Germania, ossia una tassa sul fatturato che tu realizzi nel paese, in Italia, in Francia, e lì vieni tassato. Lo voglio ridire perché il rapporto della Commissione Europea, praticamente i big della tecnologia pagano la metà di tasse rispetto ai loro a soggetti dell'industria tradizionale, cioè se fai cemento, se fai macchinari per le imprese, se fai vino, se fai mode, abbigliamento, paghi il doppio di qua, e non si capisce perché, di quanto pagano Facebook e compagnia. Un'azienda digitale è sottoposta in media ad una tassazione del 10% a fronte del 23% medio, quindi meno della metà delle compagnie tradizionali, ma in realtà pagano molto meno. In Gran Bretagna l'aliquota effettiva su Amazon è 11 volte più bassa rispetto a chi gli fa concorrenza avendo una libreria fisica al libraio. E Apple ha pagato nel 2014 tasse sullo 0,005% dei suoi profitti a Dublino, contro un'aliquota che pure è bassa, ma è del 12,5%. Alessandro Galimberti, sulle 24 ore ce la facciamo, perché noi abbiamo fatto anche degli accordi con i vari paesi, no? C'è uno studio del Senato secondo cui Facebook incassa in Italia con la pubblicità 225 milioni di euro e paga di tasse 260.000 euro, e Amazon ha pagato 3 milioni, Twitter 170.000 euro, Airbnb 60.000 euro, TripAdvisor 20.000 euro, cioè paga meno tasse di me TripAdvisor, porca miseria. Ce la facciamo? La strada sarà lunga, è tutt'altro che tracciata, e continuano a uscire idee, come anche tu riporti quotidianamente, le più diversificate. Oggi la Commissione europea dice nel suo paper dice una cosa scontatissima, che sarebbe bello avere una riforma della base imponibile per le corporate tax, per le tasse societarie. Dice: prima stabiliamo una regola unica su cosa va a battere l'imposizione, e in un secondo tempo parleremo di aliquote da uniformare. Il percorso però si rende conto che è lungo, le esigenze di cassa degli stati, dei bilanci degli stati sono assolutamente urgenti, e quindi dice: nel breve periodo applicate pure delle norme, anche quella della cooperazione rafforzata proposta da Italia, Germania, Francia e Spagna la scorsa settimana, come dicevi tu, un'imposta sul fatturato digitale, e nel lungo periodo pensiamo a una tassa, come tassare a livello europeo queste company. Il problema, quando tu prima dici l'azienda digitale paga l'11%, paga l'8-9%, ma qual è il rapporto tra il fatturato dichiarato e quello che paga di tasse? Il problema è che il fatturato, tramite meccanismi elusivi non illegali ma comunque, no, non c'è niente di illegale, ma comunque però immorali, il fatturato è 10, di 20, 40, 50 volte più basso di quello dichiarato rispetto a quello effettivo. Il problema dov'è? Che le tasse si reggono ancora sul concetto ottocentesco di stabile organizzazione, cioè la fabbrica, gli operai, gli impiegati. Ora, Nel digitale tutto questo non c'è più, perché si può fare business con una sola persona o nessuna persona, o con un algoritmo. Allora, una delle proposte che sta facendo la Commissione Europea dice: superiamo questo meccanismo della stabile organizzazione fabbrico operai impiegati, e diciamo che ognuno, chi fa business in Italia, ha una stabile organizzazione effettiva digitale, e dopodiché gli tassiamo tutta l'attività che fa. No, ma se no stiamo tassando molto di più chi ha la fabbrica, diciamo, classica, molto che è quello, di più, ma a livello di decine di volte di più, e questa non si chiama concorrenza. Ripeto, guardate Airbnb, che paghi 60.000 euro, TripAdvisor 20.000, ma la stessa cosa è risibile anche per Facebook, 260.000 euro di tasse, ragazzi, su un esercizio commerciale ne paga molto di più, e parliamo di nulla. Nulla di grande. Dombrovskis ha detto no a un insieme di soluzioni nazionali, agire con l'Unione Europea. So già, rispondo a alcuni ascoltatori, è chiaro che la resistenza la stanno facendo Lussemburgo, Irlanda e forse anche Olanda. E Belgio. E Malta. Ho capito. E chi se ne frega, però, perché quanto hai Francia, Spagna, Italia, Germania, di solito l'Unione Europea si sarebbe mossa in altri modi, ma evidentemente qualche capacità di lobby c'è anche a Bruxelles. Grazie. Grazie anche ad Alessandro Grimberti. Andiamo sul GR24, poi borsa e dati sulla disoccupazione, occupazione e i salari che, non crescendo a sufficienza, non fanno partire la cosiddetta inflazione buona. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa velocemente oggi in una giornata è un po' di sedute, che non ci sono enormi spunti. Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Più 0,6 Milano, più 0,5 Parigi, più 0,25 Francoforte, meno 0,1 Londra, meno 0,1 anche il Dow Jones. Euro a quota 1,1943. Tra i titoli in evidenza, UBI Banca più 4,35%, UX Interporter più 4,20%. Percento, Buzzi Unice in più 2, come Unicredit l'1,80 lo guadagna il Banco BPM, l'1,5 Mediobanca, Ferragamo, Brembo e Intesa San Paolo. Il fronte opposto vede Tenaris perdere l'1,24%, Luxottica l'1, Terna lo 0,90, Moncler lo 0,70, come A2A, Atlantia lo 0,60. Partiamo anche da Luxottica, perché c'è l'attesa per un verdetto europeo, e invece commentiamo dall'altro punto di vista UBI Banca. UBI Banca, come tutto il settore bancario, oggi è schizzato a rialzo, come peraltro in tutta Europa. L'idea degli operatori è chiara dopo quanto ha fatto la Fed, che ha annunciato di fatto da ottobre il progressivo venir meno degli stimoli monetari all'economia. Assistiamo a un nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Americana, quindi si va verso un aumento dei tassi di interesse a livello globale. Chiaramente le banche come le assicurazioni verranno favorite appunto da questo fenomeno. Soprattutto le assicurazioni negli ultimi anni hanno pagato molto il fatto della bassa remunerazione del capitale. Per quanto riguarda Luxottica, invece, c'è una forte attesa, come dicevi, per l'antitrust, il verdetto dell'antitrust europeo sulla fusione con Essilor. L'attesa appunto è per il 26 settembre. Erano già arrivate delle osservazioni, Luxottica e Essilor hanno proposto alcuni rimedi, ma resta comunque una forte preoccupazione su possibili appunto rilievi da parte dell'autorità per la concorrenza. Andiamo anche su altri titoli. Ho visto un po' in flessione oggi Atlantia durante la seduta, meno 0,60%. Qui facciamo anche il punto sull'offerta pubblica su Abertis e sulla, diciamo, il tentativo di controfferta spagnolo. Sì, diciamo, allora, in breve riepilogo, da mesi Atlantia è impegnata nella conquista di Abertis, che è il principale operatore autostradale spagnolo. Sembrava fatta, poi diciamo è un po' ormai da un mese e mezzo che aleggia questa ipotesi di una controfferta spagnola, che dunque salverebbe diciamo la nazionalità di Abertis da parte di questa ACS di Florentino Perez, che è anche il presidente del Real Madrid. Negli ultimi due giorni questa controfferta, che dunque batterebbe quella di Atlantia, sembra un pochino più concreta, di qui diciamo la performance un pochino fino, diciamo, al ribasso in borsa di Atlantia. Atlantia che già ieri aveva perso oltre il 2%. Possiamo anche dire che Atlantia è stata penalizzata, così come le, diciamo, è assimilabile a un utility, quindi come A2A che ha perso lo 0,7%, o Terna lo 0,9%, dalla prospettiva di rialzo dei tassi, perché se il rialzo dei tassi favorisce le banche, invece diciamo, non favorisce quei titoli più difensivi o comunque società più esposte al debito, come sono appunto queste. Allora, adesso parleremo anche di questo in parte, perché un conto è quello che farà la Federal Reserve, altra cosa è capire quello che farà la Banca Centrale Europea. La Federal Reserve ha chiarito che arriverà una stretta quest'anno, non enorme, graduale, mentre la Banca Centrale Europea aspetta di avere un'inflazione buona intorno al 2%. E di questo parleremo, perché ormai è inutile girarci attorno, tra pochi istanti, il ragionamento che si fa sia a Bruxelles, sia a Francoforte, sia tra molti economisti, è che l'inflazione non sta ripartendo, quella buona, nonostante un recupero dell'economia migliore delle attese e nonostante anche un recupero dell'occupazione, non tanto in Italia ma a livello euro, perché la trasformazione dal 2007-2008 in poi, beh, insomma, è stata una trasformazione che ha visto una pressione sui salari fortissima. Salari sotto pressione non fanno ripartire i consumi, non ripartono i consumi, non riparte neanche l'inflazione, oltre che, diciamo, prezzi più bassi per la globalizzazione, quindi per il fatto che tutti siano in concorrenza con tutti. Do solo i migliori e i peggiori, poi entriamo su questo tema. Trevi, finanziaria più 14,78, FOPE più 10,30, Tiscali più 10, Bion più 8,70, Fiera Milano più 8,40, fronte opposto, L'Uve meno 12%, Nuova Re meno 5,30, Centrale del Latte meno 4,30, ThyssenKrupp meno 4,13%. Grazie anche a Ceo Condina, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Allora, il dato da cui partiamo oggi è quello dell'INPS, o meglio, la Banca Centrale Europea, che dice che il calo della disoccupazione in Italia e Slovenia non è ancora significativo. L'INPS oggi fotografa un 2017 nei primi sette mesi dove le assunzioni stabili sono solo il 24%, quindi meno di una su quattro, dopo i picchi del 2015. Si sono creati comunque nei primi sette mesi un milione di posti di lavoro. Insomma, il saldo tra quelli creati e quelli che invece sono scomparsi è positivo per 571.000 posti. Il problema, tra virgolette, è che solo 71.000 sono a tempo indeterminato, 500.000 sono a termine. Vanno bene anche i contratti di apprendistato più 52.000, e i contratti appunto a tempo determinato fanno 500.000 in più. Quelli a tempo indeterminato sono solo 18.000 in più. E al di là di quello che farà il governo con la manovra, sta pensando di permettere a chi ha fatto l'apprendistato di usufruire del bonus assunzione giovani, anche se hai più di 29 anni, così oggi il viceministro Morando, che ha detto, stiamo pensando che chi ha fatto un apprendistato, anche se supera i 29 anni e resta però in quell'impresa, può godere del bonus assunzioni. Il tema mi sembra che non ci sarà una ripresa diciamo, accettabile anche per la Banca Centrale Europea, finché non vedremo un ritorno dei consumi, e un ritorno dei consumi lo vedi anche attraverso la leva dell'inflazione. La domanda è, insomma, come dopo questa piena che è stata la crisi, la doppia crisi, rivoluzione, cambio strutturale 2008 e poi il 2011, quando si è ritirato, diciamo, il mare, quello che abbiamo trovato è stato un paesaggio un po' diverso rispetto a quello che avevamo lasciato. Ne vorrei discutere con due profili, con due persone, con due profili molto diversi. Da un lato Giorgio Barba Navaretti, che è docente di economia politica alla Statale di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi. E dall'altra con Andrea Pontremoli. Andrea Pontremoli è stato per anni amministratore delegato dell'IBM, e che ha lasciato nel 2007. Era arrivato all'IBM, se non ricordo male. Buonasera, Pontremoli, innanzitutto. Buonasera. Come tecnico di manutenzione, proprio a livello più basso possibile. Ha fatto tutto il percorso in IBM, poi è andato a guidare nel 2007 la Dallara Automobili. E di quanto avete aumentato gli occupati, oltre che il fatturato, in questi anni, Pontremoli? Dal 2007 ad oggi siamo passati da 107, oggi siamo circa 620. Ecco, quindi 5 volte. tanto se il paese avesse fatto così non staremmo a parlare di disoccupazione, ma avete investito molto anche in formazione. E non solo voi, ma anche unendovi a università e altre imprese. Allora, vorrei partire da Pontremoli. Secondo lei, che idea si è fatto del perché in questo momento, pur con una ripresa più alta delle attese, pur con dati positivi sull'export, l'occupazione non stia ripartendo e tra l'altro quando riparte con salari che oggettivamente poi non danno nessuna spinta sui consumi interni? Ma il punto è molto interessante. Il fatto è questo, che la ripartenza è fatta su competenze che sono diverse da quelle che avevamo quando siamo entrati nella crisi. Ed è tutto lì. La mia esperienza qua, parlo di ormai 10 anni che faccio l'imprenditore, quindi sono passato da manager a imprenditore, come si dice, abbastanza diverso. Noi abitiamo in una valle di montagna e do proprio un esempio numerico. Noi siamo partiti facendo un corso all'inizio del 2007 per 20 persone disoccupate e gli abbiamo fatto la formazione CAD mettendo i nostri ingegneri, il nostro software, i nostri computer, e alla fine del corso tutti e 20 lavoravano. Allora a questo punto abbiamo cominciato a farne un altro, poi un altro ancora, poi un altro ancora, adesso siamo arrivati a oltre 250 persone che hanno fatto questo tipo di corso e il 90% lavorano tutti. Allora dico, le persone sono le stesse, il territorio è lo stesso, la cosa che abbiamo cambiato è stata la formazione. Quindi la chiave di tutto qua è di prepararsi alla ripresa, perché noi stiamo correndo il rischio di non trovare le persone che ci servono e di trovare invece dei disoccupati che non ci servono. Allora, professor Baba Navaretti, è un problema, come dicono gli inglesi, di mismatching, cioè di non incontro da domanda offerta, o c'è dell'altro? Perché io poi vorrei arrivare a quanto sta circolando tra economisti anche a Bruxelles e Francoforte, insomma, questa è una ripresa non senza posti di lavoro, non è la jobless, la ripresa senza posti di lavoro. Ci sono i posti di lavoro, ma la qualità è bassa, la pressione sui salari è anch'essa molto forte, ma insomma, è un problema di mismatching o c'è dell'altro? Secondo me è un problema di quantità e di composizione, nel senso che chiaramente stiamo uscendo da una crisi lunga dove molta gente ha perso lavoro e quindi ci vuole tempo prima che effettivamente la crescita economica si traduca in posti di lavoro e anche una pressione sui salari, e questo è un effetto quantitativo. E poi, come diceva giustamente Pontremoli, c'è un effetto qualitativo, nel senso che anche se prendiamo solo l'Italia, c'è stata una trasformazione straordinaria in questi anni del sistema produttivo. Ci sono molte imprese hanno chiuso, altre hanno aperto, quelle che si affacciano ai mercati delle esportazioni sono diverse, fanno cose diverse di quello che facevano prima, come l'azienda del dottor Pontremoli, ed effettivamente richiedono competenze nuove. Quindi da un lato ci sono lavoratori che trovano meno lavoro, se lo trovano a un salario più basso in termini più precari, dall'altro ci sono lavoratori che hanno nuove qualifiche o riescono a riqualificarsi, che invece trovano lavoro e magari riescono anche ad avere dei salari vantaggiosi. Quindi diciamo si sta creando un po' un dualismo nel mercato del lavoro dovuto all'evoluzione tecnologica, alla ripresa dei mercati eccetera, che non è solo un effetto quantitativo dovuto al ciclo, ma è proprio un cambiamento strutturale del sistema produttivo. Allora, dopo il traffico vorrei capire un'altra cosa da Barba Navaretti e poi tornare a Pontremoli. Vedo che molti mi scrivono sui salari, l'assenza di inflazione, perché poi è su questo, ripeto, che si muoverà la Banca Centrale Europea per alzare i tassi. L'assenza di inflazione è dovuta principalmente al fatto che i nuovi lavori, oltre che avere profili diversi, hanno visto anche una compressione sui salari, mi scrivono moltissimi ascoltatori, gli ingegneri 800 euro e quant'altro, oppure l'assenza di inflazione è dovuta anche al fatto che l'economia globalizzata fa sì che tutti i beni siano in concorrenza l'uno con l'altro e quindi non hai rendite, non hai situazioni di monopolio, e non so, la Cina, il Vietnam e il sud-est asiatico hanno rappresentato con prezzi bassi un elemento deflattivo fondamentale. Non è la stessa cosa capire se i consumi e i prezzi non ripartono perché mancano i salari, perché manca un salario diciamo decente, oppure i prezzi restano bassi perché ormai i beni si producono globalmente e questo vuol dire che li hai a costi molto più bassi. Dopo il traffico la risposta. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. Allora, professor Babbanavaretti, quale delle due, o forse tutte e due, salari troppo bassi o pressione sui salari o concorrenza globale che ha abbassato i prezzi, quindi non fa ripartire i prezzi al consumo? Beh, certo, la concorrenza globale ha un impatto sui salari, soprattutto per chi lavora nei settori più esposti alla concorrenza globale. Pensiamo ai settori dell'industria tradizionale, del Made in Italy tradizionale, che certo sono in concorrenza attraverso i continenti con i loro colleghi cinesi o indiani, questo è evidente. E allo stesso tempo bisogna però ricordare che l'Italia è un paese dove il costo del lavoro e dove i costi di produzione, soprattutto perché la produttività è stata bassa, sono saliti più che in altri paesi, soprattutto negli anni immediatamente precedenti della crisi, e quindi riuscire a contenere i costi, ma soprattutto non tanto tenendo bassi i salari, ma aumentando la produttività, è un canale fondamentale per riprendere competitività e allo stesso tempo dare dei margini e uno spazio per aumentare i salari. Se le imprese non aumentano la produttività è molto difficile riuscire ad aumentare i salari e continuare ad essere competitivi sui mercati internazionali. Pontremoli, ricollocando per questo sull'attività di impresa, voi avete lanciato, oltre al progetto di formazione remoto per le scuole superiori che ha coinvolto 250 ragazzi della Valle dove lei opera, no? Varano de Melegari, giusto? Sì, ecco. Varano de Melegari, la Valceno. Tra l'altro, dicevo, avete anche lanciato un progetto MUNER, ossia Motor Vehicle University of Emilia Romagna, voluta dalla regione assieme all'Università di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, le case motoristiche, Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli, Maserati, Toro Rosso, ecco, con l'obiettivo di avere due lauree interateneo e internazionali, corsi completamente in inglese e quant'altro. Lei punta quindi molto sulla formazione, ma a un certo momento il tema salariale non diventa poi così il tema finale in tutto questo percorso, che non può essere solo di carattere salariale, perché se non hai la formazione il salario non lo prendi, ma non nota anche lei una pressione sui salari che poi non fa ripartire i consumi? Allora, io non la vedo, magari ho una visuale molto piccola, però io vedo che gli ingegneri con un certo tipo di competenza, ma non parlo solo di ingegneri, parlo anche di periti a cui abbiamo fatto le formazioni di cui parlavo prima. Adesso quello che ho detto prima era solo rivolto ai disoccupati, noi adesso stiamo facendo anche dei corsi di formazione insieme a enti formativi qui su Fornovo, che è attaccato a Varano de Melegari, e noi sforniamo circa 250 persone all'anno con le competenze. Faccio degli esempi, sono tutti mestieri abbastanza nuovi: additive manufacturing, stampanti 3D, il CAD, la parte di robotica, quindi programmazione robotica, gestione dei PLC, che sono i sistemi di controllo che stanno in tutte le fabbriche oggi, e laminatori per la fibra di carbonio, che sono persone che ci sono richiestissime, a stipendi abbastanza alti, quindi sicuramente più alti di quelli delle persone che abbiamo oggi che lavorano in azienda, e quindi c'è anche una riconversione delle competenze per poter poi pretendere mestieri che hanno un salario più alto. Quindi secondo me il salario va dietro alla formazione. Quel discorso che adesso stiamo facendo sulla parte con le università, quindi a un livello ancora più alto, e anzi ne abbiamo fatto due livelli, uno sono sull'università, sì, quindi le lauree sono in realtà sono sei. Ci siamo messi insieme noi imprese, quindi parliamo di Ferrari, Lamborghini, Ducati, tutti quelli che sono stati elencati prima, ed è stato abbastanza complesso ragionare insieme, perché alcuni di loro sono anche concorrenti, sì, sul mercato. Però abbiamo condiviso un concetto che vorrei riportare, che in una battuta, perché potremmo, che abbiamo pochi secondi ancora, volevo sentire Babbanavaretti, prego. Ecco, la competizione globale oggi si gioca non più sulle singole imprese, ma si gioca sui territori. E quindi è la competenza del territorio che sarà vincente in futuro. Io sarò competente e competitivo con l'Oxford Shire che sta in Inghilterra. Babbanavaretti, per concludere, poi non è che concludiamo, il tema è tutto sul tappeto. Secondo lei, cioè, al di là del ragionamento, capiterà qualcosa? Mi spiego, le banche centrali di tutto il mondo per anni ci hanno detto che i salari non potevano crescere, dovevano essere rapportati alla produttività, a quella che era la concorrenza. Ora, se la BCE continua a dire che non tocca i tassi finché non vede l'inflazione, e l'inflazione non si sta vedendo, la soluzione può passare anche dalla BCE stessa o dalle autorità europee? La soluzione non può passare dalla BCE, ma certamente quello che fa la BCE nel lungo termine servirà a far salire i salari, nel senso che il ciclo sta ripartendo, ci sono segnali molto forti che l'attività espansiva della politica monetaria espansiva della BCE sì. ha avuto un impatto molto buono sul ciclo e quindi diamo tempo, ci sono diciamo oggi più sassolini nel sistema che sono quelli di cui abbiamo discusso finora, ma a poco i sassolini verranno rotti, sbriciolati e i salari sicuramente ripartiranno. Ce lo auguriamo. Vedo anche molti messaggi di chi dice invece io non riesco a trovare apprendisti e offro 1.300 euro per 4 giorni a settimana, 1.500 per 5, non voglio venire ragazzi. C'è tutto questo, non è un'unica spiegazione, è un'unica soluzione. Altri mi dicono no, dalla minatore di compositi in carbonio prendo 1.300 euro, oppure dottorato in ingegneria elettronica, MBA 2.600 euro. Lo so, la situazione è molto composita, però siamo arrivati a questo punto con questa ripresa, ripeto, un po' più forte delle attese, al nodo. Il nodo è occupazione, e occupazione vuol dire poi anche incremento salariale. Grazie al professor Giorgio Barbanavaretti e anche ad Andrea Pontremoli, e lunga vita a tutti i neoassunti in qualunque parte d'Italia, a partire anche dalla Motor Valley dell'Emilia Romagna. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.